La SPA, Società per il Progresso di Avonlea, si riunì quella sera a casa del signor Harmon Andrew. Tutti erano stati pregati di intervenire, giacché si dovevano discutere questioni importanti. La SPA era in pieno rigoglio e aveva già compiuto miracoli. All'inizio della primavera, il signor Major Spencer aveva mantenuto la promessa e aveva sgomberato dai ceppi d'albero, livellato e seminato tutto il terreno del fronte della strada antistante la fattoria. Una decina di altre persone, alcune spinte dal desiderio di non lasciarsi superare da Spencer, altre spronate all'azione dai progressisti nell'intimità domestica, avevano seguito il suo esempio. Il risultato fu che là, dove una volta si stendeva il sottobosco a una squallida sterpaia, c'erano lunghe strisce di un vellutato tappeto erboso. Quei poderi in cui non si era provveduto a questi lavori apparivano per contrasto così brutti che i proprietari se ne vergognarono al punto da decidere che avrebbero riconsiderato il problema la primavera prossima. Anche il triangolo di terreno al crocevia era stato pulito e seminato, e al centro vi campeggiava l'aiuola di gerani piantata da Anna al sicuro dalle scorrerie di qualunque mucca. Nel complesso, i progressisti pensavano che le cose andavano piuttosto bene. Anche se il signor Levi Boulter, avvicinato diplomaticamente da una commissione appositamente scelta, disse senza mezzi termini che non aveva intenzione di consentire loro di immischiarsi nella vecchia casa della fattoria alta. Nel corso di quella particolare riunione, i giovani si ripromettevano di avanzare una petizione agli amministratori, sollecitando umilmente che il terreno circostante la scuola fosse recintato con uno steccato, e si doveva anche discutere di un progetto di piantare alcuni alberi ornamentali accanto alla chiesa, se i fondi della società lo avessero consentito, perché, come sosteneva Anna, era inutile avviare un'altra sottoscrizione finché il circolo ricreativo restava dipinto d'azzurro. I membri della società erano radunati nel salotto degli Andrews e Jane stava già per proporre la nomina di una commissione incaricata di appurare e riferire poi il prezzo dei suddetti alberi, quando fece solennemente ingresso Gertie Pye, pettinata alla Pompadour e tutta in gingheri dalla testa ai piedi. Gertie aveva l'abitudine di arrivare tardi per fare più sensazione, dicevano i maligni. L'ingresso di Gertie in questo caso fu veramente d'effetto, poiché ella si fermò al centro della sala con aria drammatica, alzò le braccia, roteò gli occhi ed esclamò: «Ho saputo poco fa una notizia spaventosa. Volete saperne una? Il signor Judson Parker vuole affittare lo steccato della sua fattoria che dà sulla strada a una ditta farmaceutica a scopo pubblicitario». Per una volta in vita sua, Gertie Pye creò tutto lo scalpore che desiderava. Se avesse lanciato una bomba tra i progressisti, non avrebbe potuto fare di peggio. «Non può essere vero», disse Anna con indifferenza. «Proprio quello che ho detto io quando me l'hanno raccontato la prima volta», rispose Gertie, che non se l'era mai spassata tanto in vita sua. «Io ho detto che non poteva essere vero, che Judson Parker non avrebbe mai avuto il coraggio di fare una cosa simile. Ma papà l'ha incontrato nel pomeriggio e gliel'ha chiesto e lui ha detto che era vero». «Immaginate un po'. La fattoria dà proprio sulla strada di New Bridge e pensate che orrore vedere i cartelloni pubblicitari di pasticche e cerotti, eh?» I progressisti ci pensavano fin troppo. Anche il meno fantasioso tra loro riusciva a figurarsi l'effetto grottesco che avrebbe fatto mezzo chilometro di steccato adorno di cartelloni del genere. Ogni idea di abbellire la chiesa e la scuola svanì di fronte al pericolo incombente. Norme assembleari e regolamenti vennero dimenticati e Anna, dalla disperazione, rinunciò perfino a dirigere un verbale. Tutti parlavano contemporaneamente e la baraonda era infernale. «Su, su, non perdiamo la calma», intervenne Anna, che era la più eccitata di tutti, «e cerchiamo di farci venire in mente un qualche modo per impedirglielo». «Non so come tu possa pensare di impedirglielo», esclamò Jane con amarezza. «Lo sanno tutti che tipo è Judson Parker. Farebbe qualunque cosa per denaro. Non ha un briciolo di spirito critico, né alcun senso estetico». La prospettiva appariva assai poco promettente. Judson Parker e sua sorella erano gli unici Parker ad Avonlea, sicché non si poteva far leva in alcun modo su eventuali parenti. Marta Parker era una signora di una certa età che disapprovava i giovani in generale e i progressisti in particolare. Judson Era un giovialone dai modi insinuanti, sempre di buon umore e così mite che sorprendeva il fatto che avesse pochi amici. Forse aveva avuto la meglio in troppe transazioni d'affari, il che di rado accresce la popolarità. Lo si considerava molto sveglio ed era opinione generale che non avesse molti principi. Se a Judson Parker si presenta l'occasione di farsi onestamente un penny, come diceva lui, non è tipo da lasciar perdere, dichiarò Fred Wright. Non c'è nessuno che abbia una qualche influenza su di lui? Chiese Anna disperata. Va a trovare Louisa Spencer a White Sands, suggerì Carrie Sloane. Forse potrebbe convincerlo a furia di moine a non affittare lo steccato. No, non lei, intervenne Gilbert con enfasi. Conosco bene Louisa Spencer. Non crede nel progresso dei villaggi e nelle società che lo vogliono promuovere, ma crede solo nei dollari e nei loro sottomultipli. Si rischierebbe di vederlo sollecitato piuttosto che dissuaso. L'unica cosa da fare è designare un comitato che si rechi da lui a protestare, disse Julia Bell. E bisogna mandare delle ragazze perché dubito che con i ragazzi si comporterebbe in modo civile. Io però non ci vado. Risparmiatevi pure la pena di incaricare me. Meglio mandare Anna, lei sola, disse Oliver Sloane, se c'è qualcuno che può far intendere ragione a Judson è lei. Anna protestò. Consentiva volentieri ad andare a fare il discorso, ma aveva bisogno di altri per conforto morale. Sicché Diane e Jane furono designate a fornirle il suddetto conforto e la riunione dei progressisti, che per l'indignazione ronzavano come api impazzite, si sciolse. Anna era così preoccupata che non si addormentò fin verso l'alba e poi sognò che gli amministratori avevano fatto costruire uno steccato attorno alla scuola e vi avevano dipinto sopra: provate le pasticche porporine. La commissione si recò da Judson Parker il pomeriggio dell'indomani. Anna perorò appassionatamente la propria causa, dando addosso a quel progetto nefasto, e Jane e Diana la sostennero moralmente con grande coraggio. Judson fu mellifluo, soave, complimentoso, le paragonò parecchie volte a delicati girasoli. Era davvero rattristato di rifiutare un favore a delle signorine così affascinanti, ma gli affari sono affari, non poteva permettersi di farsi intralciare dal sentimento in tempi così difficili. Ma vi dico io che cosa farò, disse con un guizzo negli occhi larghi e vivaci. Dirò alla gente della casa farmaceutica di impiegare solo colori gradevoli, piacevoli all'occhio, rosso, giallo e così via. Lo diffiderò ad ogni buon conto dall'usare l'azzurro nei cartelloni. A quell'accenno all'azzurro, la commissione sgominata si ritirò, pensando cose che è più che legittimo tacere. Abbiamo fatto tutto il possibile. E ora dobbiamo solo confidare nella provvidenza, fece Jane, imitando inconsciamente il tono e la maniera della signora Linde. Chissà se il signor Allan potrebbe intervenire, rifletté Diana. Anna scosse la testa. No, è inutile disturbare il signor Allan, specialmente ora che il bambino è tanto ammalato. Judson eluderebbe elegantemente i suoi discorsi come ha eluso i nostri, anche se adesso ha ripreso ad andare regolarmente in chiesa. Solo perché il padre di Louisa Spencer è vecchio e ci tiene molto a queste cose. Judson Parker è l'unico ad Avonlea capace d'affittare la sua palizzata, disse Jane indignata. Perfino Levi Boulter e Lorenzo White non si abbasserebbero mai a questo. Per tirchi che siano, hanno troppo rispetto della pubblica opinione. Quando i fatti divennero di dominio pubblico, l'opinione generale fu fieramente avversa a Judson Parker. Ma ciò non ebbe alcuna conseguenza utile. Judson ridacchiava tra sé, sfidandola, e i progressisti stavano tentando di adattarsi alla prospettiva di vedere la parte più graziosa della strada di Newbridge sconciata dai cartelloni pubblicitari dell'industria farmaceutica. Ed ecco che, in occasione della successiva riunione della società, all'invito rivolto dal presidente alle varie commissioni di presentare le loro relazioni, Anna si alzò calma calma e annunciò che il signor Judson Parker l'aveva pregata di informare la società che non avrebbe affittato il suo steccato alla ditta di specialità farmaceutiche. Jane e Diana sgranarono gli occhi come se non credessero alle proprie orecchie. Il protocollo assembleare, strettamente osservato dalla SPA, impedì a ognuno di dare istantaneamente sfogo alla propria curiosità, ma quando la seduta fu sospesa, Anna, tuttavia, non aveva altre spiegazioni da dare. Judson Parker l'aveva raggiunta per via la sera prima e le aveva detto di aver deciso di seguire la SPA nella sua spiccata avversione contro i cartelloni pubblicitari di specialità farmaceutiche. Questo fu tutto quello che disse Anna. allora e in seguito. Ed era la pura verità. Ma quando Jane Andrew, tornando a casa, confidò a Oliver Sloane la sua ferma convinzione che v'era dell'altro dietro quel misterioso mutamento di rotta di Judson Parker, e certo più di quanto Anna Shirley avesse rivelato, anche lei diceva la verità. Anna era andata a trovare la vecchia signora Irving la sera prima, passando per la strada costiera, ed era tornata a casa per una breve scorciatoia che dapprima la portò sui bassi campi che scendevano alla spiaggia e poi attraverso la faggeta sotto la proprietà di Robert Dickinson per un viottolino che sbucava sulla strada principale giusto sopra al lago delle acque lucenti, noto alle anime poco fantasiose come il laghetto di Barry. Due uomini sedevano nei loro calessini, fermi sul ciglio della strada, proprio all'inizio del viottolo. Uno era Judson Parker, l'altro Jerry Corcoran, un tale di Newbridge, contro il quale, come vi avrebbe detto la signora Linde in termini eloquenti, non era mai stato provato nulla di equivoco. Era un rappresentante di attrezzi agricoli e un personaggio influente in materia di politica. Aveva lo zampino, la gente diceva, più di uno, in ogni faccenda che con la politica avesse a che fare. E dato che il Canada era alla vigilia delle elezioni generali, Jerry Corcoran era stato impegnatissimo per settimane, battendo la campagna a favore del candidato del suo partito. Mentre Anna emergeva da sotto i rami sporgenti, udì Corcoran che diceva: «Se voterà per Amesbury, Parker, beh, ho qui una fattura per quel paio di erpici che ha acquistato in primavera. Penso che non le spiacerebbe riaverla indietro, eh?» «Noi, beh, se la mette in questo modo», disse Judson con voce strascicata, con un mezzo sorriso, «penso che potrai farlo. Uno deve badare ai propri interessi in tempi così difficili». Entrambi, in quel momento, si accorsero di Anna e la conversazione cessò di colpo. Anna si inchinò gelidamente e proseguì con il mento lievemente più sollevato del solito. Ben presto Judson Parker la raggiunse. «Vuole un passaggio, Anna?» si informò giovialmente. «Grazie, no», disse Anna con gentilezza, ma con un sottile e pungente disdegno nella voce che trapassò perfino la coscienza non troppo sensibile di Judson Parker. Questi arrossì in volto e diede un iroso strattone alle redini, ma subito dopo intervennero a frenarlo alcune prudenti considerazioni. Guardò Anna imbarazzato, mentre lei continuava a camminare senza voltarsi né a destra né a sinistra. Aveva udito la proposta inequivocabile di Corcoran e il suo palese assenso? Accidenti a Corcoran! Se non fosse riuscito a esprimere i suoi intendimenti con frasi meno pericolose, prima o poi avrebbe finito col mettersi nei guai. E accidenti alle maestrine con i capelli rossi, e alla loro abitudine di saltar fuori all'improvviso dalle faggete dove non è possibile prevedere che siano. Judson Parker, che giudicava Anna prendendo se stesso a misura di tutto, ovvero misurava il grano con il suo staio, come si diceva in campagna, cioè imbrogliava, come si fa di solito con la gente, riteneva che la ragazza sarebbe andata a spiattellare tutto. Judson Parker, come abbiamo visto, non dava troppo peso alla pubblica opinione, ma passare per uno che si era fatto corrompere era assai spiacevole. E se mai questa voce fosse giunta all'orecchio di Isaac Spencer, addio per sempre a ogni speranza che gli concedesse la mano di Louisa Jane, addio alla consolante prospettiva di impalmare le rede di una fattoria ben avviata. Judson Parker sapeva già di non essere troppo gradito al signor Spencer e non poteva permettersi di correre rischi. Anna, volevo giusto vederla a proposito di quella faccenduola di cui si discuteva l'altro giorno. Ho deciso alla fin fine di non affittare il mio steccato a quella ditta. Una società come la vostra, con un così nobile scopo, deve essere incoraggiata. Anna si fece un tantino più cordiale. Grazie, disse. E non occorre che lei faccia parola della piccola conversazione che ho avuto con Jerry. «Boh, non avevo comunque intenzione di farne parola», rispose Anna con freddezza. «Avrebbe preferito vedere ogni steccato di Avonlea deturpato da insegne pubblicitarie piuttosto che abbassarsi a discutere con l'uomo che vendeva il suo voto». «Per l'appunto, convenne Judson, più che mai convinto che tra loro due se li intendessero perfettamente. Non ho mai pensato che lo facesse naturalmente, stavo solo menandolo per il naso, quel Jerry Corcoran. Lui si crede un furbone, un tipo svelto, ma io non ho alcuna intenzione di votare per Amesbury. Voterò per Grant, come ho sempre fatto. Vedrà quando ci saranno i risultati delle elezioni. Ho solo voluto stuzzicare un po' Jerry per vedere se si comprometteva. E per lo steccato va tutto bene, può dirlo ai progressisti. Ci vuole ogni sorta di gente al mondo, come spesso ho sentito dire, ma di certuni penso proprio si potrebbe fare a meno, disse Anna quella sera alla sua immagine riflessa nello specchio dell'abbaino rivolto verso Levante. Non avrei riferito quella disgraziata conversazione a nessuno, sicché al riguardo ho la coscienza pulita. Davvero non so chi o che cosa si debba ringraziare per questo. Io non ho fatto nulla per ottenerlo, ed è difficile pensare che la provvidenza si serva di politicanti della genia di Judson Parker e Jerry Corcoran. Capitolo 15. Anna chiuse a chiave la porta della scuola. Era una sera calma, color oro, e il vento faceva le fusa tra gli abeti rossi attorno al campo da gioco, e le ombre si allungavano pigre al limite dei boschi. Lasciò cadere la chiave nella tasca con un sospiro di soddisfazione. L'anno scolastico era finito, lei era stata riassunta per il prossimo, con molte espressioni di elogio. Solo il signor Harmon Andrew le aveva consigliato di usare più spesso la verga. Ora, due mesi deliziosi di ben meritate vacanze l'attendevano. Anna si sentiva in pace con il mondo e con se stessa, mentre scendeva giù per la collina con il canestro di fiori in mano. Da quando a maggio erano spuntati i primi germogli, Anna non aveva mai mancato una settimana di recarsi a visitare la tomba di Matthew. Gli altri ad Avonlea, ad eccezione di Marilla, avevano già dimenticato quell'uomo tranquillo, schivo, insignificante che era stato Matthew Cuthbert. Ma il suo ricordo era ancora vivo nel cuore di Anna e tale sarebbe per sempre rimasto. Non avrebbe mai dimenticato il buon vecchio, che era stato il primo a darle comprensione e simpatia, che la sua fanciullezza assetata aveva sempre desiderato. Ai piedi della collina un ragazzino sedeva sullo steccato all'ombra degli abeti rossi, un ragazzino con grandi occhi sognanti e un volto bello e sensibile. Saltò giù con una piroetta e raggiunse Anna sorridendo, ma sulle sue guance vi erano tracce di lacrime. «Ho pensato di aspettarla, signorina, perché sapevo che sarebbe andata al cimitero», disse facendo scivolare la manina nella sua. «Anch'io voglio andarci. Devo deporre questo mazzetto di fiori sulla tomba del nonno Irving, da parte della nonna. E poi, signorina, vorrei mettere questo fascio di rose bianche accanto alla tomba del nonno, in ricordo della mia mammina», dato che non posso metterlo sulla sua tomba, ma non crede che lei lo saprà ugualmente? Certo che lo saprà, ne sono sicura, Paul. Vede, signorina maestra, oggi fanno 3 anni che la mammina è morta. È passato tanto tempo, ma il dolore è sempre lo stesso e sento la sua mancanza come prima. A volte mi sembra di non poterlo sopportare, tanto mi fa male. La voce di Paul si incrinò e le labbra tremarono. Abbassò gli occhi a guardare le rose, sperando che la maestra non si accorgesse che aveva le lacrime negli occhi. «Eppure», disse Anna con gran dolcezza, «non vorresti che smettesse di farti male, non vorresti dimenticarla alla tua mammina, neanche se lo potessi. No, non vorrei davvero, è proprio così che mi sento. Lei capisce così bene, signorina maestra. Nessun altro mi capisce allo stesso modo, neanche la nonna, che pure è così buona con me. Il babbo sì, mi capiva, ma non potevo parlare molto della mamma, neanche con lui, perché non riusciva a sopportarlo. Quando lo vedevo portarsi le mani al viso, sapevo sempre che era venuto il momento di smettere. Poverino, deve essere terribilmente solo senza di me, ma vede, non ha altro che una governante ora, e pensa che le governanti non siano adatte per educare i bambini, soprattutto dato che gran parte del tempo è via per affari. Meglio le nonne, sono più simili alle mamme. Un giorno, quando sarò cresciuto, tornerò dal babbo e non ci lasceremo più». Paul aveva parlato tanto ad Anna di sua madre e di suo padre che a lei pareva quasi di averli conosciuti. Pensava che la madre Dovesse essere molto simile a lui, come temperamento e come indole, e si era fatta l'idea che Stephen Irving fosse un uomo piuttosto riservato, ricco di sentimenti teneri e profondi, che teneva scrupolosamente nascosti al mondo. «Non è molto facile conoscere mio padre», aveva detto Paul una volta. «Io non l'ho conosciuto veramente che dopo la morte della mamma, ma quando si arriva a conoscerlo è magnifico. Voglio più bene a lui che a tutti al mondo». E subito dopo alla nonna, e poi a lei, signorina maestra. Vorrei più bene a lei, subito dopo il babbo, se non fosse mio dovere amare di più la nonna, dato che ha fatto tanto per me. Lei lo sa, signorina maestra, però vorrei che mi lasciasse il lume acceso in camera quando vado a letto. Se lo porta via non appena mi ha rimboccato le coperte, perché dice che non devo avere paura. Io non ho paura, ma preferirei avere la luce. Mammina sedeva sempre accanto a me e mi teneva la mano finché non mi ero addormentato. Penso che mi viziasse. Le mamme lo fanno a volte, sa? No, Anna non lo sapeva, anche se riusciva benissimo a immaginarlo. Pensò tristemente alla propria mammina, quella mamma che immaginava molto bella, che era morta tanto tempo fa ed era stata sepolta accanto al marito, in quella tomba lontana, che nessuno si recava mai a visitare. Anna non ricordava nulla di sua madre e per questo quasi quasi invidiò Paul. «Il mio compleanno è la settimana prossima», disse Paul, mentre risalivano la lunga collina rossa, crogiolandosi al sole di giugno. «E il babbo mi ha scritto che mi manda un regalo che a parer suo mi piacerà più di qualunque altra cosa possa mandarmi. Credo che sia già arrivato, perché la nonna tiene chiuso a chiave il cassetto della libreria, e questa è una novità. Quando le ho chiesto il perché, ha assunto un'aria misteriosa e ha detto che i bambini non devono essere troppo curiosi. È molto bello il giorno del compleanno, non è vero? Compio 11 anni. Non si direbbe a guardarmi, vero? Nonna mi dice che sono molto piccolo per l'età che ho, e tutto perché non mangio abbastanza zuppa d'avena. Io faccio del mio meglio, ma la nonna me ne dà delle porzioni così abbondanti. Non lesina di certo lei, gliel'assicuro. E questo fin da quel giorno che lei e io facemmo quella chiacchierata tornando a casa dalla scuola domenicale, quando lei mi disse che avremmo dovuto pregare per superare le nostre difficoltà. Io ho pregato ogni sera a Dio che mi facesse la grazia di riuscire a mangiare la zuppa fino all'ultimo cucchiaio, ma non ci sono ancora riuscito. E non so se la grazia divina è poca o se la zuppa è troppa. Nonna dice che il babbo è cresciuto a furia di minestroni e certamente nel suo caso gli han fatto bene, perché dovrebbe vedere che spalle ha. Ma a volte, concluse Paul con un sospiro e con l'aria meditabonda, a volte penso che la zuppa d'avena sarà la mia morte. Anna si concesse un sorriso, dato che Paul la guardava. Tutta Avonlea sapeva che la vecchia signora Irving tirava su il nipotino secondo i buoni e antiquati metodi a base di zuppa d'avena e di sani principi morali. «Speriamo di no, mio caro», disse Anna allegramente. «E come stanno i tuoi amici abitanti delle rocce? E il più vecchio dei gemelli continua a comportarsi bene?» «Oh, deve farlo», rispose Paul con enfasi. «Sa che non potrei essere suo amico se così non fosse». Eppure io sono convinto che è davvero un malvagio. E Dora ha scoperto qualcosa della signora Doro? No, ma credo che nutra dei sospetti. Sono quasi sicuro che mi ha tenuto d'occhio l'ultima volta che sono andato alla caverna. A me non importa se lo scopre. È solo per amor suo che non vorrei, per non ferirla nei suoi sentimenti. Che se poi vuole proprio essere ferita, io che cosa posso farci? Se qualche sera venissi con te sulla spiaggia, credi che anch'io potrei vedere gli abitanti delle rocce? Paul scosse la testa gravemente. No, non credo che lei potrebbe vedere i miei amici. Io sono l'unica persona che possa vederli. Ma potrebbe vedere i suoi abitanti delle rocce. Lei è di quelle persone che possono vederli. Siamo della stessa razza noi, sa? Lo sa, signorina maestra? Aggiunse stringendole affettuosamente la mano. «Non è magnifico essere di questa razza, signorina maestra?» «È magnifico», convenne Anna, mentre gli occhi grigi le brillavano e fissavano due occhi azzurri altrettanto scintillanti. Anna e Paul sapevano ambedue quanto è bello il reame che disvela la fantasia ed entrambi conoscevano la via per arrivare in quella terra felice. Là, la rosa della gioia fioriva immortale nei pressi della valletta e del ruscello. Le nubi non oscuravano mai il cielo sfolgorante di sole, mai le dolci campane mandavano suoni cupi o stonati e abbondavano gli spiriti affini. La conoscenza della geografia di quella terra, a est del sole e a ovest della luna, è un sapere che non ha prezzo e non si acquista su qualunque mercato. Deve essere donata quando si nasce dalle buone fate e gli anni non la intaccano né la tolgono. È meglio possederla e vivere in una soffitta che abitare in un palazzo ed esserne privi. Il cimitero di Avonlì era ancora quel luogo remoto e coperto di erbe incolte che era sempre stato. A dir la verità, i progressisti lo tenevano d'occhio e Priscilla Grant, prima dell'ultima riunione della società, aveva letto una prolusione sui cimiteri. In un tempo di là da venire, i progressisti si promettevano di sostituire la vecchia recinzione di legno, tutta irregolare e coperta di licheni, con una bella rete metallica, di falciare l'erba e di raddrizzare i monumenti caduti e pericolanti. Anna depose sulla tomba di Matthew i fiori che aveva portato per lui e poi proseguì fino all'angolino ombreggiato dai pioppi dove riposava Esther Gray. Dal giorno del picnic, a primavera, Anna aveva sempre deposto fiori sulla tomba di Esther quando si recava a visitare quella di Matthew. La sera prima era andata in pellegrinaggio nel piccolo giardino abbandonato tra i boschi e vi aveva raccolto alcune rose bianche di Esther. «Ho pensato che ti sarebbero piaciute più di tutte le altre, cara», disse dolcemente. Anna era ancora lì seduta quando un'ombra si disegnò sull'erba. Alzò gli occhi e scorse la signora Allan. Così tornarono a casa insieme. Il volto della signora Allan non era più lo stesso volto della giovane sposa che il pastore aveva condotto ad Avonlì 5 anni prima. Aveva perso un po' della sua freschezza e alcune rughe sottili e minute si disegnavano attorno agli occhi e alla bocca. La causa di alcune di queste rughe era una minuscola tomba posta in quello stesso cimitero. Altre più recenti erano dovute alla malattia del suo bambino più piccolo, ora felicemente superata, ma aveva sempre le fossette sulle guance, gli occhi chiari, vividi e sinceri, e quel che al suo volto mancava di fanciullesca beltà era più che compensato dall'aumentata espressione di tenerezza e di forza contenuta. «Immagino che stia già pregustando le vacanze, eh, Anna?» disse mentre uscivano dal cimitero. Anna annuì. «Sì, e la sola parola mi fa venire l'acquolina in bocca, come fosse una ghiottoneria. Credo che l'estate sarà bella. Intanto la signora Morgan verrà sull'isola in luglio e Priscilla ce la farà conoscere. Alla sola idea mi sento percorrere da uno dei miei vecchi brividi. Spero che ti diverta, Anna. Hai lavorato sodo durante l'anno e sei riuscita in quel che volevi. Oh, non lo so. I risultati molte volte mi hanno deluso. Non ho fatto quel che mi ripromettevo di fare quando ho cominciato a insegnare l'autunno scorso. Non ho tenuto fede a tutti i miei ideali. Oh, nessuno mai riesce a farlo», disse la signora Allan con un sospiro. «Tuttavia, Anna, sai cosa dice Lowell? Fallire perché si mira in basso è delittuoso. Dobbiamo avere degli ideali e cercare di viverli, anche se non sempre vi riusciamo. La vita sarebbe una ben misera cosa senza di essi. Con essi invece è grande e magnifica. Tieniti salda ad essi, Anna. Farò del mio meglio, però ho dovuto rinunciare a molte delle mie teorie», disse Anna con una risatina. «Quando ho iniziato a fare la maestra avevo il più bel campionario di teorie che lei avesse mai visto, ma in un caso o nell'altro quasi tutte hanno fatto cilecca». «Perfino la teoria sui castighi corporali?» scherzò la signora Allan. Anna arrossì. «Non mi perdonerò mai per aver picchiato Anthony. Sciocchezze, cara. Lo meritava e gli è stato bene anche. Da allora non hai più avuto fastidi con lui e da parte sua ha dovuto riconoscere che non esiste nessuno come te. Quando dalla sua mente caparbia venne sradicata l'idea che una ragazza non vale quanto un uomo, la tua gentilezza ti ha guadagnato il suo amore. Forse è vero, meritava una lezione, ma non è questo il punto. Se avessi deciso di picchiarlo con calma e ponderatezza perché consideravo giusta la punizione, non me la sarei presa come faccio. Ma la verità è, signora Allan, che mi sono lasciata trasportare dalla rabbia e per questo l'ho picchiato. Non pensavo se fosse giusto o ingiusto. Anche se non l'avesse meritato, l'avrei fatto ugualmente. È questo che mi umilia». «Beh, Di errori ne facciamo tutti, cara, perciò non pensarci più. Dovremmo rimpiangere gli sbagli e imparare da essi senza portarceli dietro come un fardello per l'avvenire. Oh, ecco che arriva Gilbert Blythe in bicicletta. Anche lui a casa per le vacanze, immagino. Come procedete tu e lui nei vostri studi? Abbastanza bene. Secondo i nostri calcoli dovremo finire Virgilio stasera. Abbiamo solo una ventina di versi, poi non studieremo più fino a settembre. Credi che riuscirai ad andare all'università? Oh, non lo so. Anna guardò con aria sognante al lontano orizzonte azzurrino. Gli occhi di Marilla non miglioreranno più di quanto hanno fatto finora, anche se dobbiamo ringraziare che non siano peggiorati. E poi ci sono i gemelli. In un certo qual modo non credo che il loro zio li manderà a prendere. Forse l'università è alla svolta della strada, ma non sono ancora arrivata a quella svolta. E non ci penso troppo per paura poi di essere delusa. Bene, vorrei che tu andassi all'università, Anna. Ma se non dovessi riuscirci, non esserne delusa. Dopotutto ci forgiamo la nostra vita ovunque noi siamo. L'università può solo aiutarti a farlo con maggiore facilità. La via si allarga o si restringe secondo i contenuti che noi le diamo, non per quello che le togliamo. La vita può essere ricca e piena qui come ovunque, se riusciamo ad aprire completamente i nostri cuori alla sua bellezza e completezza. Credo di capire che cosa intende, disse Anna pensosa, e so che sono tante le cose per cui dovrei essere grata e felice, a cominciare dal mio lavoro, da Paul Irving, dai cari gemelli, fino a tutti i miei amici. Sa, signor Allan, sono così grata e felice per l'amicizia che rende bella la vita. Una vera amicizia è una gran cosa, confermò la signora Allan, e dovremmo tenerla in grande considerazione e mai offuscarla, venendo meno alla lealtà e alla sincerità. Ho paura che l'amicizia sia spesso degradata a una sorta di pettegola intimità che con la vera amicizia ha ben poco a che fare. Sì, come nel caso di Gertie Pye e di Julia Bell. Sono amiche intime, vanno insieme ovunque, ma Gertie non fa che spettegolare alle spalle di Julia, tanto che tutti credono sia gelosa di lei. Persino che goda quando qualcuno critica Julia. Penso che chiamare questo amicizia sia davvero una profanazione. Quando abbiamo un amico dobbiamo cercare solo il meglio che è in lui e dargli il meglio che è in noi, non crede? Allora l'amicizia è davvero la cosa più bella del mondo. L'amicizia. È una cosa meravigliosa, sorrise la signora Allan. Ma un giorno. Poi tacque bruscamente. Quel viso delicato, appena abbronzato, aveva negli occhi candidi e nella mobilità dei lineamenti più della bimba che non della donna. Il cuore di Anna finora non nutriva altri sogni se non l'amicizia e le sognanti ambizioni dell'età, e la signora Allan non voleva essere lei a togliere freschezza a quella dolce incoscienza. Per questo lasciò la frase a metà, perché la completassero gli anni a venire.